viaggi immensamente come il sole che riscalda la mia vita. Quando penso a te nella mia stanza sento brividi sulla pelle. Sono solo e mi lascio andare come un volo di gabbiani. Mi piaci immensamente come il mare che mi può portare via. E non ho la forza di lasciarti anche se tu hai sbagliato. Se tu vorrai potrai cambiare, dammi ancora il tuo sorriso. Cercami, la mia vita sei tu, tu che non credi al mio mondo. Cercami, la mia vita sei tu, io che ti ho dato il mio mondo. Cercami, la mia vita sei tu, tu che non credi al mio mondo. Cercami, la mia vita sei tu, io che ti ho dato il mio mondo. Cercami, cercami, cercami, cercami, cercami, cercami, cercami, cercami, cercami, cercami, cercami, cercami. Mi piaci immensamente come un fiore che profuma i miei pensieri. Vedo la tua immagine tra le stelle che mi guardano piangendo. E non trovo una ragione se credere o fuggire. Mi piaci immensamente e con te vorrei vivere felice. Ma la felicità che tu mi dai ha un prezzo troppo caro da pagare. E una lacrima dai miei occhi segna già il mio viso. Cercami, la mia vita sei tu, tu che non credi al mio mondo. Cercami, la mia vita sei tu, io che ti ho dato il mio mondo. Cercami, la mia vita sei tu, tu che non credi al mio mondo. Cercami, la mia vita sei tu, io che ti ho dato il mio mondo. Cercami, cercami, cercami, cercami, cercami, cercami, cercami, cercami, cercami, cercami, cercami, cercami, cercami.